cartellone di Elisabetta Fiorito. Questo folle non sta bene, ha bisogno di un dottore. Contraddirlo non conviene, non è mai di buon umore. È la più triste figura che sia apparsa sulla terra. Cavaliere senza paura di una solitaria guerra, cominciata per amore di una donna, conosciuta dentro una locanda ora dove fa la prostituta, e credendo di aver visto una vera principessa, lui ha voluto ad ogni costo farle questa sua promessa, e così, da giorni, abbiamo solo calci nel sedere, non sappiamo dove siamo, senza pane, senza bere. E questo pazzo scatenato, che è il più ingenuo dei bambini, proprio ieri, si è stroncato fra le pale dei mulini. Un testardo, un idealista, troppi sogni ha nel cervello. Io, che sono più realista, mi accontento di un cappello. Mi farà governatore e avrò terra in abbondanza, quanto è vero che anch'io ho un cuore e che mi chiamo Sancho Panza. E per questo suo farsi d'ombra delle cose. L'altro giorno, quando ha visto quelle pecore indifese, le ha attaccate come fossero un esercito di mori, ma che alla fine ci mordessero oltre i cani e anche i pastori, era chiaro come il giorno. Io sarò un codardo e dormo, ma non sono un traditore. Credo solo in ciò che vedo, e la realtà per me rimane il solo metro che possiedo. Quanto è vero che ora ho fame. Ho fame. Don Chisciotte, ho fame. Hai fame? Ho fame. E sentiamo un brano dello spettacolo Don Chisciotte, che è in scena ancora per questo weekend al Nuovo Teatro Nuovo di Napoli, per la regia di Antonio Latella. Antonio Latella, ricordiamo che sarà la prossima stagione il nuovo direttore artistico del Nuovo Teatro Nuovo di Napoli. Buongiorno e congratulazioni. Buongiorno. Allora, un Don Chisciotte abbiamo sentito un po' particolare, molto onirico, ma lei è in scena contemporaneamente con Don Chisciotte al Nuovo Teatro Nuovo di Napoli, poi al Teatro Argentina di Roma fa Le Nuvole di Aristofane, e il 22 gennaio è stata in Germania con Le Metamorfosi e altri racconti dal grandissimo Kafka. Insomma, un po' impegnativo il suo cartellone. Guardi, in realtà tutti quanti dicono che faccio troppa roba, no? Ma è molto semplice, è veramente un filo rosso, un lavoro che dura da più di un anno ed è tutto un lavoro sulla malattia e la letteratura e la malattia. Quindi in realtà per me è un grande e unico spettacolo, ovviamente con delle situazioni ben differenziate, appunto da Kafka a K.L. Dopa di Oliver Sacks, alle Nuvole che abbiamo appunto a Roma in questo momento. Sono nati in vari momenti dell'anno, la casualità ha voluto poi che in questo momento sono tutti quanti insieme nei vari teatri, però lo considero veramente un unico grande viaggio ed è un po' un modo di lavorare che ho, nel senso di scegliere poi una tematica che mi permette poi di fare mettere una lente di ingrandimento sui dettagli di questo viaggio, in qualche modo. Allora, parliamo intanto dello spettacolo che sta all'Argentina di Roma, che è Le Nuvole di Aristofane. In questo caso come si manifesta la pazzia? In Socrate, perché si va a lezione da Socrate? Più che in Socrate, in coloro che vogliono bruciare la casa della cultura, nel senso che poi Strepsiade come gesto finale vuole distruggere il luogo del pensiero, in qualche modo poi per me è una metafora, perché il luogo del pensiero è diventato nell'allestimento il teatro. E devo dire che la follia è lì, la follia è in coloro che non capiscono e sono ciechi davanti a questo. Cioè, siamo in un momento particolare del nostro paese e il fatto di non capire che comunque la cultura è la vera bandiera civile di un popolo, che ti permette di parlare con gli altri popoli. Quando si diventa ciechi davanti a questo, secondo me ci si ammala e si rischia di far ammalare l'intera nazione in qualche modo. Si rischia di far capire che Socrate è il pazzo e non gli altri, questo sì, è un po' il senso. Purtroppo sì, si rischia di far capire che coloro che cercano di dare un senso alla vita, che poi il compito della cultura è quello, riuscire a spiegare il perché ci siamo e continuare a cercare di rispondere a questa domanda, ed è quello che ha fatto la cultura in tutti questi secoli, cercare sempre di capire perché l'uomo è qui adesso, ora, in questo momento. Insomma, si fa il discorso peggiore e non quello migliore, per parafrasare Aristofane. Purtroppo ho come l'impressione che il discorso peggiore aiuti ad essere più veloci, a risolvere dei problemi in modo un po' più veloce. Dall'antica Grecia noi poi andiamo nel Don Chisciotte, che è invece la pazzia e poi un po' il sogno, no? Il sogno di un avvenire migliore, che però è un sogno sui mulini a vento, appunto. Abbiamo sentito un brano. La cosa incredibile dei mulini a vento, che poi sono due pagine, tre pagine del romanzo, ma sono la sintesi di tutto questo enorme diario di bordo, lo chiamerei. La follia in questo caso è proprio in coloro che non riescono ad accettare il quotidiano e si nascondono dietro la letteratura, e poi forse quando si svegliano per vivere l'oggi è un po' troppo tardi e si cerca di vivere la vita normale, la vita quotidiana di tutti i giorni come se fossimo all'interno di un romanzo. E questa è la follia di coloro che pur per il mal di vivere cercano di disegnarsi una vita in qualche modo, più che viverla. E il rischio della letteratura, di coloro che affondano totalmente nella letteratura dimenticando il quotidiano, c'è. Il rischio del contrario c'è, proprio rispetto a quello che dicevamo prima sulle nuvole, nel Don Chisciotte c'è l'altro lato della medaglia in qualche modo. Andiamo a Die Verwandlung und andere Erzählung, che sono le metamorfosi e gli altri racconti. L'ho detto in tedesco perché lei ha poi fatto questo spettacolo in Germania. Sì, io lavoro spesso in Germania, è uno spettacolo che è nato a Colonia, un grande stabile, diciamo, uno stabile di Colonia. È stato un viaggio particolare perché siamo partiti dal racconto delle metamorfosi e abbiamo messo gli altri racconti insieme, cercando di fare un ritratto del grande genio di Kafka. E devo dire che è stato un lavoro molto, molto forte, in alcuni casi anche a tratti violento, perché accettare la profondità, il lato buio di Kafka, nonostante l'ironia, non è facile. In questo caso siamo, sempre tornando al tema principale, malattia e letteratura, siamo comunque davanti a un uomo che per far letteratura si è ammalato, fino a morirne, perché poi non è riuscito a fare solo letteratura. Sempre il suo essere scrittore è sempre stato associato a altri lavori, quindi non ha mai fatto fino in fondo la scelta di essere solamente uno scrittore. E proprio, credo, proprio questa mancanza di questa forza lo ha portato poi piano piano a corrodersi come il suo insetto e piano piano a morire. E poi ricordiamo, sì, infatti, che questa è stata la particolarità di Kafka, che lui non ha mai vissuto del suo lavoro da scrittore, non ha mai assaporato la gioia poi del successo, questo verrà tutto dopo, no? Questo è molto triste riguardo a Kafka, però ci fa capire che molto spesso il successo non vuol dire necessariamente bravura, perché se Kafka non ci è riuscito e poi è stato uno dei grandi talenti della letteratura mondiale. Ma devo dire che spesso il successo non è affiancato alla ricerca, comunque Kafka ha fatto ricerca, è stato uno dei più grandi scrittori e ha rimodernato la lingua tedesca, ha cercato un nuovo modo di scrivere la lingua tedesca, è stato veramente un architetto della lingua nella sua estrema semplicità e le sue metafore sono veramente una sintesi incredibile dell'uomo del Novecento. Allora, ringraziamo Antonio Latella, le facciamo di nuovo le congratulazioni per essere il nuovo direttore artistico del Nuovo Teatro Nuovo di Napoli nella prossima stagione. Ricordiamo poi che è in scena fino al 31 gennaio la sua regia delle Nuvole di Aristofane al Teatro Argentina, mentre ancora per questo weekend il Don Chisciotte al Nuovo Teatro Nuovo di Napoli, e aspettiamo di vedere anche queste metamorfosi magari in italiano. No, ce lo deve promettere che lo deve portare anche in Italia. Sarebbe bello. Va bene, grazie, arrivederci. Arrivederci. cartellone. E domani partorì un maschietto e poi morì. E tu baci disse addio, fortunato è un figlio mio. Dalla culla ti spiava, poi a Binnuzza ti baciava. Si breava di suo figlio che era nato senza sticchio. Mamma mia, mi fu dato il nome sbagliato, perché tu fui chiamato da tutte sfortunato. E tu pagi ci parì. E quello che state ascoltando è un brano tratto dallo spettacolo Le Pulle in scena fino a domani al Teatro Valle di Roma, uno spettacolo a firma di Emma Dante, testo e regia, e invece a firma per le musiche Gianluca Porcu. Buongiorno Gianluca. Buongiorno a voi. Allora, le pulle in palermitano vuol dire puttane, poi scusate l'eufemismo, come si dice, però vuol dire praticamente la storia di queste quattro persone di strada, ragazzi di strada più un trans, giusto? Esatto, sì. E che cosa succede sul palco? Ma sul palco accade la vita di questi, la vita e la storia di queste quattro appunto prostitute, questi travestiti e di questo trans, che quindi ricordano la loro storia, la storia che li ha messi sulla strada, e poi intervengono invece nelle loro vite queste tre fate guidate da una levatrice che si chiama Mab, che è impersonata dalla stessa Emma Dante, li portano verso un viaggio, diciamo, onirico, li accompagnano verso un viaggio onirico, con l'intenzione di volergli cambiare la vita, di volerli rendere, diciamo, più felici. Ecco, noi abbiamo detto appunto putte e abbiamo subito messo il nome, il pronome, diciamo così, un po' più forte, proprio per far vedere come il dialetto mutua poi dall'italiano. E un'operetta amorale, per quale motivo Gianluca è un'operetta amorale? Dunque, per quale motivo un'operetta amorale? Questa è una domanda che si dovrebbe fare a Emma, ma dal mio punto di vista è un'operetta che racconta proprio con degli occhi, con delle parole neutre, con uno sguardo neutro, cercando di cogliere l'umanità, la storia di queste persone diverse. Di queste persone diverse che sono il trans, ricordiamo il femminello, l'ermafrodito, sì, le sì. Prostitute, poi uno spettacolo che è ricco di trucchi, parrucche, coreografie, un po' anche di ama spettacolo. Che cosa ti ha spinto a scrivere della musica per uno spettacolo così poliedrico? Beh, quello che mi ha spinto è il fatto che era Emma Dante a chiedermelo. Io sono un grande fan di Emma, ho visto tutti i suoi spettacoli, l'amo tantissimo. E quando mi ha parlato di questo spettacolo sono rimasto così spiazzato, perché non mi sarei mai sognato di fare un musical oppure un'operetta, perché generalmente si tratta di generi musicali che non, di generi, diciamo, teatrali che non richiamano il mio interesse. Però, per come me l'ha descritto lei, mi ha subito incuriosito e quindi ho abbracciato questo invito con grande entusiasmo. E allora ascoltiamo un altro brano delle musiche che hai scritto proprio per Le Pulle. Thank you. Insomma, le pulle, qui sentiamo un momento strumentale, Gianluca, non è quindi tutto cantato? No, non è tutto cantato, ci sono anche dei momenti dove la parola non si mischia con la musica. Questo in particolare è un momento così di respiro che prepara a un momento molto intenso che riguarda la storia appunto del trans. Che riguarda la storia del trans. Tutto ciò è ambientato a Palermo, nella Palermo di quale epoca? Ma una cosa che io ho sempre pensato degli spettacoli di Emma Dante è che sono spettacoli senza tempo. Gli spettacoli in cui non c'è un riferimento, diciamo, un'epoca di riferimento. Diciamo che appunto c'è questo essere un po' onirico di questo spettacolo che forse ci porta in una dimensione atemporale? Sì, direi proprio così. Sì, si sta lì, si guarda e si vede la vita che accade, così, la storia di questi personaggi con uno sguardo umano su questi personaggi diversi per scoprire anche delle storie diverse da quelle che normalmente noi viviamo. Allora ricordiamo Le Pulle, operetta amorale, musiche come abbiamo sentito di Gianluca Porco per testa e regia di Emma Dante fino a domani al Teatro Valle di Roma, ma dal 27 al 30 al Teatro della Tosse a Genova e dal 2 al 14 febbraio al CRT di Milano. Ciao Gianluca. Ciao a tutti, un bacio. Sta a soffrire, guarda sto mare che c'è un fondo di paura, sta cercando e c'è un barà. Conosciuto sicuramente la bellissima voce di Mia Martini e anche quella di Enzo Gragnaniello. Buongiorno Enzo. Buongiorno. Allora, L'erba cattiva non muore mai. Noi la intervistiamo perché è in scena al Teatro Vittoria fino al 31 gennaio con questo spettacolo insieme a Luigi Di Fiore e parla praticamente del compito di realizzare uno spettacolo teatrale nella città di Napoli, la sua città natale poi. Allora, qual è la particolarità di realizzare uno spettacolo a Napoli? Visto che, insomma, mi sa che i napoletani sono abbastanza precisini. Insomma, l'arte dello spettacolo è nata forse proprio a Napoli? Penso... Ma può darsi, non lo so, ti dico la verità, perché l'arte è universale, per cui ogni etnia esprime la sua arte... Penso che è una cosa primordiale che appartiene proprio al pianeta. Al pianeta, ma Napoli però ha una sua caratteristica, no? Perché una persona che deve realizzare uno spettacolo a Napoli si confronta un po' con Edoardo, magari. Ma dipende dalla personalità che c'ha un artista. Se è uno che c'ha una sua personalità, non si confronta, si confronta relativamente, ma sicuramente uscirà la sua parte. Cioè la sua personalità, insomma, non c'è bisogno di rifarsi, quella è l'arte, o ce l'hai o non ce l'hai, quella si esprime da solo, noi siamo dei mezzi. Noi siamo dei mezzi. Allora, i due però si ritrovano sul palcoscenico del Teatro Vittoria e poi in seguito andrete anche al Bellini di Napoli per parlare, confrontarsi proprio su Napoli. Quindi Napoli diventa però il centro poi di questa riflessione, dei vicoli, delle strade, insomma delle contraddizioni di questa città particolare in tutta Italia ma anche in tutta Europa. Diciamo che da Napoli possono partire tutte le contraddizioni che stanno proprio nel mondo. Ecco, certo è una città dove le persone vivono una loro libertà, cioè anarchia. Diciamo che è un popolo molto anarchico in Napoli, c'è un popolo anarchico che è imprevedibile, è abituato a essere imprevedibile. I napoletani non piacciono organizzarsi, insomma, vivono veramente, a meno che non sono impiegati, però quelli che vivono così, liberi, senza lavoro, che ne so, sono imprevedibili, possono essere anche dei grandi artisti, non si sa. Ecco, ma questo fatto però, questa anarchia che è anche bella perché ci dà il simbolo della libertà, però poi pesa su Napoli perché fa sì che la città non si sviluppi, fa sì che ci siano anche delle ombre molto forti come la criminalità organizzata, insomma. Quindi bisognerebbe un po' combatterla questa anarchia, questa napolitanità. No, diciamo che... quelli che si prendono la briga di comandare, di gestirsi il potere, hanno altri interessi e chiaramente producono delinquenza, producono disoccupazione. Purtroppo, secondo me, non bisogna dare mai la colpa alle persone che non hanno un lavoro, no, né una casa e hanno veramente dei problemi seri. La colpa si deve dare a quelli che si mettono a governare e non hanno rispetto dell'umanità. Questo è inutile che perdiamo tempo, sei un cane che si morde la coda. Insomma, vanno bene i napoletani anarchici, quelli lì che fanno parte della criminalità organizzata proprio perché è organizzata, non sono anarchici. Questo è il sunto. No. Diciamo, la delinquenza organizzata si organizza da sola, hanno dei parametri, hanno un loro modo di fare. Poi ci sono quelli che vanno a lavorare, ci sono quelli che lottano per un posto di lavoro, ci sono quelli che fanno i politici, ci sono tante persone. Cioè, Napoli artistica si esprime con una sua libertà, con una sua anarchia. Anarchia io non intendo un movimento politico, ma proprio un modo di vivere, un modo di essere. Insomma, la delinquenza sta a Roma, ci sta a Milano, anzi a Milano. Certo, questo è ovvio, ha ragione. I napoletani, ecco, bisogna stare attenti, insomma, a parlare di Napoli. Napoli bisogna parlare dei vulcani, del mare, del tufo, della sua magia, dei suoi fantasmi. Non bisogna la delinquenza. Quando dicono Napoli dobbiamo stare attenti perché è l'Interland, cioè ci sta l'Interland, ci stanno i paesi intorno a Napoli, ma Napoli è una città di grandi architetture, ci sono i grandi artisti, ci sono i grandi intellettuali, cioè Napoli è una città magica. Ah, questa è la parola giusta, allora io direi che proprio possiamo chiudere così, Enzo Gragnaniello. Napoli è una città magica perché non esiste nessuna città così bella, in riva al mare. Ora poi mi prenderò gli strali dei genovesi e dei veneziani, però questa bellezza e questo essere struggente di questa città che ha dato i natali a tantissimi artisti. Allora ricordiamo L'erba cattiva non muore mai con Enzo Gragnaniello al Teatro Vittoria fino al 31 gennaio e poi al Bellini di Napoli dal 2 al 7. Uno spettacolo teatrale sulla città di Napoli. Abbiamo fatto una piccola riflessione con Enzo Gragnaniello, ma la grande riflessione si fa sul palco e la fa Enzo Gragnaniello e Luigi Di Fiore. Grazie Enzo. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata. Viva Napoli. Viva Napoli. Cartellone. Sì, andiamo a Milano, dove in scena al Teatro Nuovo c'è uno spettacolo un po' particolare, perché parla del dramma di tutti i tempi, cioè della passione di Gesù, però insomma parla del dramma di tutti i tempi un po' in versione ironica, perché i protagonisti sono Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, insomma i due protagonisti delle Iene, che recitano in una veste un po' inedita per loro, perché recitano i due ladroni. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che cosa succede sul palco? Voi siete lì sul Golgota aspettando Godot? Sì, diciamo che c'è l'attesa, non c'è Godot, nel senso che c'è qualcosa che potrebbe assomigliargli, perché poi, come dire, Godot era una forma astratta, non so, era l'attesa di qualche cosa più che di qualcuno. Ci sono due persone in scena che attendono e quindi il paragone è sicuramente immediato. Al di là di questo, in realtà noi aspettiamo Gesù, perché siamo i due ladroni ai lati della croce centrale. Questa croce centrale rimane spoglia per gran parte del tempo. Attendiamo la nostra ora e ci domandiamo che cosa ci capiterà e soprattutto perché, che differenza c'è tra la morte di una persona famosa e la morte di due persone che non conosce nessuno, e soprattutto come vive la morte una persona che ha fede per colui che sta per arrivare e una persona che non ne ha. E quindi da qua ci sono una serie di domande, di non risposte, che insomma, che noi che ormai insomma, a questo punto abbiamo 40 anni e ci accingevamo ad iniziare un prodotto teatrale, abbiamo pensato di farci e di scriverci da soli. Ma qua. I due ladroni, se ben ricordo, uno era buono e l'altro era cattivo. Chi è che fa il buono e chi è che fa il cattivo? Non c'è proprio un buono e un cattivo. Come ti dicevo, c'è uno scettico e uno che invece ha fiducia. Io sono quello che ha fiducia e Luca invece interpreta quello che è scettico. Per lui tra Gesù e Silvan non c'è nessuna differenza. Ecco, ora faccio un paragone anacronistico. Lui non parla di Silvan, ma in realtà per lui è un mago. Invece per me è una persona che ha, insomma, che ha i poteri che sembra che abbia, insomma, quindi ho fiducia. Quindi l'esigenza nasce dal bisogno di ritornare a teatro dopo tanto tempo e volevamo farlo in modo, insomma, come ci piaceva. E quindi, insomma, ci siamo buttati in questa cosa che forse non era e non è semplicissima, ecco. Sì, però è proprio una vera e propria pièce teatrale in cui succede di tutto, perché voi praticamente non state appesi alle croci, state sotto le croci in attesa di Gesù, in attesa della star. Sì, noi ci aggiriamo per questo spazio del Golgota e però a un certo punto, insomma, dovremmo pure appenderci, insomma, non ti posso dire di più, ma no, non svegliamo il finale, non svegliamo. Questa attesa, insomma, finirà a un certo punto, perché il destino è quello. Ci misuriamo con momenti comici, perché quindi, ora, al di là dell'introduzione iniziale che potrebbe fuorviare, insomma, la pièce anche dei momenti comici. Ci sono delle musiche, ci sono due scarafaggi che anche loro sono sul Golgota e giudicano questi uomini timorosi di morire, che si fanno tante domande, mentre gli scarafaggi muori se gli schiacci e basta, non muoiono né di infarto, né di crocifissione, né di queste piccolezze. E quindi irridono questi uomini. Pure il riferimento a Kafka avete messo. Se vuoi mettercelo, sì, era inconsapevole. No, quello che è stato consapevole era creare questa specie di piccolo coro greco fatto da questi due scarafaggi che si cibano dei loro escrementi, quindi sono delle bestie immonde, ma che in un certo senso sono molto meglio di altri uomini che fanno finta di farsi delle domande e poi vivacchiano. Invece loro domande non se ne fanno, mangiano e cagano, se mi permettete la parolaccia, e quindi giudicano questi uomini che hanno paura di morire e siamo vestiti da scarafaggi, insomma ci trasformiamo. Ricordiamo, al Teatro Nuovo di Milano fino al 31 gennaio, poi però c'è una lunga tournée che parte l'11 febbraio, siete a Gallarate, il 12 febbraio a Pavia, a Biella, insomma andate un pochino in tutto il nord e nell'attesa poi di magari il prossimo anno vedervi a Roma o al sud, al Teatro Teatro Nuovo, ricordiamo La Passione secondo Luca e Paolo, uno spettacolo divertente ma che fa riflettere, per vedere due protagonisti in TV finalmente ritornare al teatro. Ciao Paolo! Ciao, vi ringrazio, a presto e vi aspettiamo. E adesso entriamo in un mondo di magia, sì, perché a Roma, al Teatro Olimpico, da martedì 22 fino a domenica 31 gennaio c'è il Festival della Magia Super Magic 2009, Mondi di Illusione, e uno degli illusionisti che sarà sul palco è proprio lui, Alberto Alivernini. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, comico e cabarettista, ma di dove sei? Di Napoli? Di Roma? No, sono di Roma, però siccome sono stato a Napoli due volte in vita mia, una volta ci sono stato per 2 ore e mezza, potrei aver preso lì l'accento. Ah, no, perché noi pensiamo sempre alla magia, alle cose, allora pensiamo, ci sentiamo più partenopei in questo, no? La maschera, ma e invece non ti senti un po' come Silvan, non so, che era tutto preciso e faceva simsalabim, no? Beh no, io sono esattamente, diciamo esattamente l'opposto, io sono il mago, il prestigiatore, il dissagratore di un certo modo di far magia, o più che altro avendo io una vena comica che mi ha dato, ringraziando il cielo, il Padre Eterno, ho mescolato le due arti 25 anni fa ed è venuto fuori un prestigiatore, perché io sono prestigiatore a tutti gli effetti, solo che fa magie un po' bizzarre, stravaganti, bislacche, ma sono magie a tutti gli effetti. Contemporaneamente si ride. Ma tipo fai ritrovare l'amore a persone che si lasciano, oppure trovi degli oggetti in sala smarriti, no? No, io faccio a livello sentimentale, faccio una cosa molto più utile in amore, io faccio lasciare le persone, così possono vivere felici singolarmente. Comunque ricordo a chi ci ascolta che sono 8 artisti che vengono da tutte le parti del mondo, ci sono campioni del mondo nel settore della magia, c'è addirittura il Chris Hart, l'inventore della mano di Adams, della famiglia Adams, e quindi ci sono numeri straordinari. C'è un mix di tutte le forme possibili di illusionismo. Approfitto per dire una cosa, intanto che grazie al grande successo delle edizioni precedenti i biglietti mi dicono che siano quasi tutti esauriti. Perché? Perché tutti quelli che vengono a vederlo una volta rimangono talmente estasiati che aspettano l'appuntamento dell'anno dopo, perché è come se voi andassi in un grande teatro a Las Vegas, vedete cose, mi dicono che ci sono persone, vi dico quest'ultimo aspetto, che ritornano nello stesso periodo, in questi 11 giorni, a rivederlo perché alcune cose non riescono a spiegarle. Questo spettacolo vengono da tutta Italia tutti i prestigiatori del Club Magico Italiano, saranno 1200, perché questo spettacolo stupisce loro, figuriamoci il pubblico, fra virgolette, normale. Ma tu che magia fai? Ci puoi fare una magia per radio? Perché so che tu fai delle magie che accompagni con le parole, però qui non si vede, non si vede. Sì, molto va visto, perché io sono vestito con anche l'eleganza, la giacca d'Armani, i pantaloni di Comio, praticamente se mi vedete sono vestito Armani Comio. Posso fare la magia più veloce? Qual è? La volete rivedere? Ah, ecco, grazie. E invece alla radio i tempi sono molto contratti. Faccio quello. Allora guardate qui, ventaglio di carte, voilà, diventato un elefante, voilà. Un po' di polverina magica, è diventata una crociera ai Caraibi, basta così o smettiamo? No, la crociera ai Caraibi ci piaceva. Senti, e invece ci puoi svelare un trucco? Voi sapete mantenere un segreto? Tanto qui è tutto segreto. Pure io. Alberto, questo ci è piaciuto, allora noi diciamo di andare a vedere le magie di Alberto Alivernini insieme con altri illusionisti al Super Magic 2009 Mondi di Illusione, il Festival della Magia al Teatro Olimpico di Roma dal 22 al 31 gennaio, per ridere insieme di noi stessi e anche per divertirci con le vostre illusioni. Grazie Alberto. Sì, ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao. Oh. Ciao. E quello che state sentendo è un brano dello spettacolo Opera Comique con i Fools in scena al Teatro Sala Pintor di Roma dal 28 al 31 gennaio. Buongiorno a Rosa Masciopinto, che è anche la coautrice di questo atto impossibile, affabulazione tragicomica per un coro di attori. Buongiorno Rosa. Buongiorno. Lo spettacolo si chiama Impossibili ed è stato scritto da Opera Comique. Che cosa fate voi? Riscrivete i testi delle canzoni oppure insomma gli adattamenti? Abbiamo sentito il nostro inno, che non è proprio esattamente quello che sentiamo al Quirinale, ecco. Ecco, è un adattamento infatti. I testi li scriviamo, cioè sono stati scritti tanto tempo fa, nel 95, da Opera Comique, che era una compagnia, un duo, e le persone sono Rosa Masciopinto, che sono io, e adesso faccio la regia di questo adattamento, e Giovanna Mori. Poi adesso viene usato lo stesso testo, ma l'adattamento è polifonico, cioè ha sei voci, invece che a due, ha sei. Questa è la particolarità. E le musiche sono tutte musiche italiane, si va dai Canti Anarchici fino a Monteverdi, passando per Celentano, riadattati per sei voci. È una piccola opera musicale, però fatta di testi anche. Quanto dura lo spettacolo ed è tutto cantato? No, è recitato, cioè è una storia che si racconta ed è farcita, inframmezzata da tantissimi brani musicali. E lo spettacolo dura un'ora, poco più di un'ora, insomma. Allora, voi siete dal 28 al 31 alla Sala Pintor, al Teatro Pintor di Roma, poi avrete delle riprese mensili. Avremo delle riprese mensili, cioè riprendiamo lo spettacolo un weekend al mese, tutti i mesi fino a maggio. Il primo weekend, diciamo, il primo fine settimana di ogni mese fino a maggio. Allora ricordiamo Impossibili, affabulazione tragicomica per un coro di attori che cantano, con la regia di Rosa Masciopinto, e ricordiamo che è anche una delle attrici insieme a Giovanna Mori, sei attori con i Fools, in arte Opera Comique. Sentiamo allora un altro brano dello spettacolo, Rosa. Non esisterà mondo. È soltanto una favola inventata da te per burlarti di me. Non esiste l'amore, è una storia ridicola, ma non ride il mio cuore, me l'hai detto anche tu che non ami già tu. Cartellone. Si intitola Diamoci del tu ed è il secondo disco dell'orchestra Maniscalchi, una singolare jazz band che propone un repertorio tutto italiano di musica leggera e jazz degli anni 30 e 40 e che quest'oggi è di nuovo ospite qui a Cartellone, di nuovo ospite di Radio 24. L'orchestra debutta domenica sera nel Tempio Milanese del Jazz, il Blue Note. A dirigere la band, tre sax, due trombe, un trombone, un quartetto ritmico e un tenore, il maestro Christian Schmitz, e l'ha intervistato la nostra Marta Cagnola. Con Giorgio Bozzo, che è il produttore del progetto, stavamo abbiamo lavorato al progetto delle Sorelle Marinetti, che nasceva dalla nostra passione per la musica degli anni 30 e 40 e soprattutto dalla vicenda artistica e umana delle Sorelle Lescano. Da lì abbiamo iniziato a fare una ricerca, io mi sono come dire, prodigato nel reperire repertorio originale degli anni 30 e 40, e abbiamo pensato con Giorgio di allargare la formazione che accompagna solitamente le sorelle Marinetti, che è formato da 3 strumenti a fiato e un quartetto di ritmica. Abbiamo pensato di allargarlo ad una vera e propria jazz band all'italiana, e abbiamo aggiunto anche la voce di Gianluca De Martini, che è il tenore che fa parte a tutti gli effetti dell'organico dell'orchestra, come si usava una volta. Guarda, guarda, guarda il bel pinguino innamorato, col colletto duro e con il petto inamenato, va passeggiando sopra il pack con un'aria molto chic, dondolando mollemente il frac. Stiamo parlando di un periodo anche storicamente difficile. Si fondono tante atmosfere diverse, e immagino che lo studio che tu hai fatto e le ricerche non possano prescindere da questo argomento. No, assolutamente. In Italia si era creata appunto una situazione un po' strana, perché formalmente la musica sincopata, quella che veniva chiamata pluto-giudaico-massonica dal regime, era formalmente proibita, ma in realtà tutti i grandi esecutori di musica jazz e leggera, che all'epoca si compenetravano queste due modalità, ricevevano notizie e dischi, soprattutto quasi di contrabbando, attraverso quei musicisti che facevano la spola fra l'Europa e l'America sui grandi transatlantici. Per cui c'era un forte debito nei confronti della realtà americana, ma date le difficoltà e le ristrettezze italiane specifiche, i nostri musicisti sono ingegnati e hanno inventato uno stile che era sì simile al jazz, ma non identico, per cui l'ispirazione è fortissima e spesso i riferimenti sono quasi espliciti in certi arrangiamenti. Eppure c'è una modalità, c'è una via, diciamo così, italiana al jazz. Paramo, perché sei morto, pane non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Tra le caratteristiche italiane ce n'era una molto buffa, vista a posteriore, era davvero divertente, dell'italianizzazione dei nomi. È per questo che tu diventi Chicco Maniscalchi, avendo un nome così un po' esotico? Sì, esotico per gli italiani forse di allora. Schmidt in realtà vuol dire del fabbro. Allora con Giorgio, insomma, abbiamo pensato di italianizzare il nome in modo tale da avere tutti i nomi della band italiani, e quindi da Del Fabbro, diciamo così, ho pensato io a trasformare il mio nome in Maniscalchi, da cui Orchestra Maniscalchi. Donne, donne, donne, quante donne belle vedo qua, guarda, guarda, guarda, donne d'ogni tipo e d'ogni età, ma la donna mia non c'è, perché bella lei non è, la mia donna. La donna bella, molto bella, non mi va. Tra l'altro, una cosa divertente, voi avete riscoperto anche dei personaggi che erano un po' dimenticati. Del trio Lescano si parla ancora, anche se la storia non è mai stata chiarita, infatti ci sono tutti gli studi di Giorgio Bozzo in merito, ma ad esempio personaggi come De Angelis. Rodolfo De Angelis, ecco, è stato una figura geniale, a suo modo assolutamente unica. Era un cabarettista, cioè un attore di varietà, che fra i primi si fece chiamare cantante autore e scrisse una grandissima quantità di canzonette nello spazio di pochi anni, e canzonette nelle quali, come alcuni ad esempio ricorderanno, Ma cos'è questa crisi, prendeva un po' in giro la società italiana dell'epoca. Nel nostro spettacolo proponiamo due brani in realtà di De Angelis. Uno è un malinconico addio, ironico ovviamente, un malinconico addio alle canzoni americane, per dire addio canzoni americane, se tornerà la musica italiana, addio canzoni americane. E invece nell'altro brano, che si intitola La donna bella non mi va, c'è un gustosissimo botte e risposta fra il cantante solista e la band. sei come un puro sangue. Che non ha mai perso una corsa. Sei tu che vieni avanti. Sei rara come una sorpresa. E quello che sentite è Piero Ciampi, il poeta italiano che è scomparso nel 1980, è ricordato in una 2 giorni, oggi e domani, dai mercanti di storie al Teatro della Contraddizione di Milano. Direttore dei mercanti di storie è Massimiliano Loizzi, che è in scena con un monologo, Mi sono arreso a un nano. Buongiorno Massimiliano, ma chi è questo nano? Buongiorno. C'è qualche riferimento temporale e contemporaneo? Purtroppo in questo caso no, insomma, però il riferimento ci sta bene sempre, perché ci siamo arresi un po', però in questo caso non è riferito, insomma, al nano malefico. A noi potremmo dire al nostro caro presidente del Consiglio, certo. Ma insomma, adesso a parte questo, voi fate questa 2 giorni dedicata a Piero Ciampi, che si intitola Cerimonia anarcolica, che vuol dire? Sì. È cerimonia anarcolica perché, come dire, è una sorta di funzione laica e libertaria per ricordare un poeta che alcuni definiscono il più grande poeta sconosciuto, perché purtroppo è dai più dimenticato, e noi abbiamo voluto dedicare insieme ad altri artisti che insomma portano stretto il desiderio di conservare la memoria di Piero Ciampi, questi 2 giorni in cui si avvicenderanno sul palco vari artisti, video, interviste dedicate, insomma, per lui. Ecco. Un cantautore, un poeta livornese, quindi anche un po' particolare nel panorama dei cantautori italiani che erano tutti di Genova. Che poi in realtà lui si definiva livornese e anarchico, allora diceva, ecco, queste due cose purtroppo la vita mi ha dato 2 disgrazie, scherzava così ironicamente. E in realtà è stata fonte di ispirazione per moltissimi dei cantautori nostri, insomma, italiani della scuola genovese, come dicevi tu. E, purtroppo, come dicevo prima, è stato per ragioni più che altro legate al suo carattere molto difficile, perché insomma era un talento davvero burbero, alcolizzato, quindi questo l'ha portato ad essere dimenticato anche per quello. Le sue esibizioni sono ricordate in maniera rocambolesca e sono famose perché lui spesso non portava a termine le esibizioni, perché insomma era in uno stato alterato. Allora voi fate proiezioni, video, incontri, interviste, sì, spettacoli e concerti di artisti, sì, in questa 2 giorni. E offriamo anche del vino, perché ci sembra giusto in onore a lui, insomma, alla sua memoria, soprattutto alla bellissima canzone che lui cantava che si chiamava Il Vino, quindi insomma gli spettatori saranno invitati a bere del vino a tutte le ore, quindi è una cerimonia anarcolica anche per quello. E lui disse: la morte mi fa ridere, la vita no. La vita no, sì. Diceva: mio padre dice di me che sono un buon figlio, i miei fratelli mi chiamano il loro buon fratello, ma loro non sanno che uccido le formiche, do pedate in culo ai cani e un giorno in una rissa mi sono arreso un nano. Ed è da qui la frase del monologo, che lui si presentava in questa maniera. Monologo che a che ora è stasera? Il monologo stasera inizia alle 20:30. Alle 20:30, allora. A seguire ci saranno i vari ospiti, tra cui Folco Orselli, Alessio Lega, Stefano Tessadri, Veronica Sbergia. E poi ci sarà una replica notturna straordinaria all'1:30. All'1:30, dopo tutto, sì, quel vino. Ai, dopo ai, ai. Tutto quel vino. Allora, Teatro della Contraddizione di Milano. Ricordiamo, oggi, ore 20:30, il monologo Mi sono arresa a un nano di Massimo Loizzi, nell'ambito dei 2 giorni dedicati al cantautore, al poeta Piero Ciampi, Cerimonia anarcolica. Grazie a Massimo Loizzi, ciao, in bocca al lupo. Crepi, ciao. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it. Una buona giornata e un buon weekend a tutti da Elisabetta Fiorito.